Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Come porti i capelli, bella bionda, tu li scusi, porti alla bella Mariana. Guardi, di solito io i capelli me li fa, dipende molto anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti indietro, poi con una spilla me la punto sul cervello qui, li raccolgo e poi me li faccio tutto sul di fianco, una spilla... in mezzo al mar, ci stanca minché fu. Scusi. Come porti i capelli, bella bionda, vi ricordate la canzone di Cocchi e Renato? Bene, come li portate voi i capelli, anche se non siete biondi o belli? E come pensate di portarli in vacanza e in che condizioni soprattutto vi augurate di portarveli indietro, a casa, dopo le vacanze, dopo l'estate? Attenzioni e cure per le nostre chiome in estate, questo è il tema di oggi, ne parleremo con diversi esperti. Il primo voglio presentarvelo subito, abbiamo in linea il dottor Fabio Rinaldi, dermatologo a Milano, presidente della Fondazione di Ricerca per la Patologia sui Capelli. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Il sole regala splendidi riflessi ai nostri capelli, ci sembrano più belli? Sì, ci sembrano più belli, diventano più chiari, sì. Diventano più biondi, è come quando si va a fare dal parrucchiere i colpi di sole proprio per avere dei riflessi più biondi. In realtà sono più belli, però il fusto viene danneggiato, quindi attenzione, ce ne vuole parecchia. Quindi il sole li regala bellezza, però li sottopone a forti stress. Se poi aggiungiamo il vento, l'acqua di mare, l'acqua delle piscine, dottor Rinaldi, qua bisogna fare attenzione, seriamente. Sì. Bisogna fare attenzione prima di andare via, in modo da partire con i capelli più protetti possibile, più forte possibile. E poi bisogna fare attenzione quando si è via per fare in modo che il fusto si danneggi meno, l'acqua del mare ma anche della piscina tende a seccare un po' il fusto, a rompere un po' tutta la struttura, il sole li schiarisce, li rovina ancora di più, quindi possono spezzarsi, rovinarsi e quindi diventare più brutti. Ma ci sono tante cose da poter fare in modo che ci si goda sia il sole che i capelli belli. Ecco, infatti noi ne parliamo proprio oggi per evitare che, no, al ritorno dalle vacanze, alla fine dell'estate, ci si trovi con i capelli un po' danneggiati. Insomma, se me lo dicevi prima, noi lo diciamo. Allora andiamo a scoprire quali sono le precauzioni che abbiamo per i nostri capelli alla vigilia delle vacanze. Io senza capelli sono una pagina senza quadretti. Io uso un sacco di prodotti, lo shampoo, il balsamo, la crema, li curo molto. Li lavo e basta. Vitamine, soprattutto qualcosa a livello interno, pochi pasticci sopra, non tutte quelle lozioni, quelle cose a cui non credo molto. Ho uno shampoo normale, al massimo ogni tanto il balsamo. Bisogna usare dei prodotti appropriati, delicati, tagliarli, rinforzarli, magari non maltrattarli con tinte, mesh. Si amano tranquilli tra i miei pensieri e il cielo. Sono la parte di me che mi assomiglia di più. Io vivo sempre insieme ai miei capelli. Alcune precauzioni, ma anche qualche preoccupazione. Voi che problema avete in testa? 800 24 0024. Tra poco vi daremo indicazioni per proteggere i vostri capelli dal sole, perché come dicevamo, in autunno raccoglieremo quello che abbiamo seminato in questa stagione. È matematico, vero dottor Rinaldi? È matematico. La caduta tipicamente che c'è in ottobre, si dice con le castagne, è proprio per lo più causata dal sole che inevitabilmente si prende, anche non solo andando in spiaggia e facendo il bagno in mare, ma anche camminando a lungo, facendo passeggiate. Quindi è automatico, tanto più seminiamo bene, tanto meno raccoglieremo capelli per terra dopo, quindi li salveremo. Senta dottore, che cosa le serve per darci il consiglio giusto? Quali indicazioni particolari possono darle i nostri ascoltatori che sono invitati a chiamare il nostro numero verde? Ma che tipo di capelli hanno, tanto più sono fini o tanto meno lo sono, se sono tanti o pochi, perché c'è proprio differenza. È chiaro che una massa di capelli importanti protegge di più, anche se il sole passa lo stesso, passa attraverso i cappellini, quindi figuriamoci attraverso i capelli. Che tipo di abitudini hanno? Prima abbiamo sentito le interviste molto interessanti, direi che quasi tutti hanno detto delle cose corrette, quindi le abitudini normalmente pre-vacanza, prima di esporsi al sole. Quindi, che tipo di capelli avete? Quanti? Pochi? Tanti? È un'indicazione? Mossi, lisci, tinti? Naturali. Sì, l'indicazione se mossi o lisci è, sono fatti, nel senso che se sono naturali no, ma se si fanno delle tecniche cosmetiche come la permanente oppure la lisciatura è un'indicazione perché è un ulteriore danneggiamento al fusto e quindi possiamo trovare qualcosa ancora in più per proteggerli. Dottor Rinaldi, un ascoltatore al 349-238-6666 mi chiede: e per chi i capelli non ne ha più? Beh, noi ci occuperemo anche del cuoio capelluto. Certo. Anzi, direi che qui la cosa diventa importante, nel senso che chi i capelli non li ha più espone il cuoio capelluto al sole e effettivamente la protezione solare vuol dire proteggere addirittura da tutte quelle neoformazioni, addirittura tumori della pelle che a volte possono essere anche un pochettino più pericolosi, per cui la protezione diventa necessaria per la salute della pelle. Allora, trattamenti quotidiani, trattamenti preventivi per evitare che l'estate stressi il nostro capello. Attenzione, parleremo anche di peli. Dottor Rinaldi, sono cugini primi, fratelli? Sono fratelli, anche se si comportano da fratelli ogni tanto diversi, nel senso che spesso... I fratelli diversi, possiamo intitolare così la puntata di oggi, mi ha dato un ottimo spunto, i fratelli diversi, perché si comportano in modo differente. Esatto. Spesso, almeno per la parte diciamo ormonale, cioè controllata dagli ormoni, peraltro normali spesso, tanti più capelli uno ha e tanti meno peli e viceversa, la sfortuna è che tanto meno capelli uno ha in testa, spesso più peli ha sul corpo e quindi vanno praticamente controllati in maniera totalmente diversa. Scende l'acqua scossa, l'acqua calda, fredda, calda, giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? Questa. Schiuma, soffice mare, vita bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa. Dottor Rinaldi, con schiuma o senza schiuma? Parliamo di shampoo. Parliamo di shampoo. In effetti la schiuma è utile. Non è vero che senza schiuma completamente lo shampoo è più delicato. La schiuma è utile perché è la schiuma che è la prima cosa che porta via lo sporco e tutte le particelle di sporco legate anche al sebo, al grasso anche ambientale. Per cui la schiuma è utile. L'importante è che sia poca schiuma, non particolarmente abbondante, non se ne faccia troppa, e con questi tensioattivi ormai effettivamente io credo che di poter sfatare, ormai ci sono tensioattivi molto tranquilli nella maggior parte degli shampoo, per cui il danno è veramente poco, in modo che questi tensioattivi che fanno la schiuma si inglobino lo sporco e se lo portino via insieme alle particelle di grasso, quindi un po' di schiuma direi che è utile. Addirittura ci sono degli shampoo che fanno una schiuma molto rapida, cioè immediatamente fanno tanta schiuma in modo che portino via la maggior parte possibile delle particelle di sporco e poi si riduce la schiuma e detergono e idratano, quindi un po' di schiuma direi che è utile. In questa puntata tutta dedicata alla bellezza e al benessere abbiamo il piacere di avere in linea Maria Grazia Cucinotta. Maria Grazia, benvenuta. Buongiorno, grazie. A proposito di bellezza, la bellezza della natura dell'isola di Favignana che hai scelto per fare da cornice al tuo nuovo film. Guarda, è una bellezza, che è un paradiso che la natura e il mondo ci ha regalato, è fantastico, guarda, veramente nessuno della troupe vuole più andare via, cioè, non possiamo inventarci qualche altra scena e restare qui sempre. C'è sempre un perché, che è il titolo del film, ma che la dice lunga. C'è sempre un perché, perché c'è sempre un perché, perché qualcosa accade, perché comunque... nella vita delle cose che ci sembrano brutte poi si trasformano in belle, c'è sempre un perché. Allora Maria Grazia, se tu sei d'accordo io giocherei col titolo del tuo film per scoprire qualche tuo segreto per mantenere così i belli i tuoi capelli, segno che ne conosci virtù, limiti, necessità, insomma tu hai una chioma proprio perfetta. Allora, sei pronta? Il dottor Rinaldi sta ascoltando e quindi ci dirà se quello che ci racconti è giusto, cioè se ci dai veramente il tuo segreto, se vuoi prenderti cura anche tu in questa puntata dei nostri capelli. Allora, c'è sempre un perché se diventano crespi. Quella è l'umidità, perché sono riccia, io li stiro, quando c'è l'umidità logicamente ritorno alle origini. C'è sempre un perché se sono poco lucidi. Ma quello non mi capita. Poi mia mamma quando ero piccola mi metteva il succo di limone. Questa, dottor Rinaldi, è una buona indicazione? Possiamo, così diventiamo un po' anche noi come Maria Grazia Cucinotta, almeno col limone, almeno due capelli uguali a quelli di Maria Grazia Cucinotta. Io sarei già felice. Ci vuole però la natura, perché i capelli devono essere ricci e belli di suo. Sì, il limone può essere utile perché cambia un pochettino il pH e li rende più luminosi. Poi sicuramente aveva un'ottima alimentazione, ha un'ottima alimentazione, perché anche questo serve a mantenere più bello il fusto e la cheratina. Quindi sì, sono belli così. Promossa. Poi uno dice, se viene così vuol dire che il limone ci facciamo il bagno. Certo. C'è sempre un perché se compaiono le doppie punte. Maria Grazia, di la verità, ce ne hai anche tu qualche? Ce l'ho pure io. Magnifico, evviva. Piastre, cioè maltrattamenti vari, perché poi in una giornata a volte cambi quattro volte acconciature, quindi vai giù di fono, vai giù di colori, di tutto, poi alla fine anche loro si fibrano. Certo. Ci fibriamo noi. Sì, figurati, loro. Quei poveri capellucci. Dottor Rinaldi, lei ci dà un'indicazione per evitare le doppie punte? E poi è sempre un segno di sofferenza del capello? No, è un segno di lunghezza per lo più, se i capelli sono lunghi, perché proprio man mano che diventano lunghi è più normale che si rompano un po' e si fratturino. Quindi ogni tanto basta appena spuntarli o accorciarli, ma non è una sofferenza del capello, al limite è proprio solo il fusto. Oppure se invece si formano le doppie punte già con i fusti un po' corti, allora è un segno di sofferenza e qui servirebbe guardare per esempio come lo stato delle unghie, perché potrebbe essere una condizione proprio alimentare da carenza di aminoacidi più che di vitamine come normalmente si dice, oppure proprio di maltrattamenti, per esempio cosmetici, con qualcosa che li danneggia particolarmente. Maria Grazia, c'è sempre un perché se li abbiamo ricci e li vogliamo lisci e viceversa? Tu lo dimostri. Ma, guarda, io sono nata riccia, mi piaccio molto riccia, però quando sono liscia mi sento molto più in ordine, perché riccia è bello mezza giornata, dopodiché evapora, è difficile da trattenere e poi già sono tanta, pure i capelli ricci, cioè mi sembrava, ho detto tolgo qualcosa, il resto ci sono nata, la cosa più facile è tirarmi i capelli. Senti Maria Grazia, come li porti lo sappiamo, bella mora, ma dove li porterai, quali progetti? Guarda, il progetto adesso ho finito questa, che è la prima coproduzione tra l'Italia e la Cina, che mi rende molto orgogliosa perché da donna sono stata la prima a firmare questo accordo e a portare avanti e a finire questo progetto. Brava, brava, brava. E poi ho tanti altri progetti per le mamme e sto portando avanti una campagna per aiutare la fatica di essere mamme, visto che la società non ci appoggia, lo stiamo facendo in un modo indipendente. E poi ho tante altri progetti, uno con la Russia che inizieremo a novembre. Insomma, il mio sogno nel cassetto è portare l'Italia fuori dall'Italia, perché è un paese meraviglioso e voglio che lo sappiano tutti. Grazie per essere stata con noi, ti aspetto qui per parlare alle mamme, Maria Grazia. Va bene, in bocca al lupo, un bacione a te, grazie. Arrivederci, ciao. Dottor Rinaldi, se la cava bene, no? Direi di sì, perfetta. Riccia diventa liscia, cura i capelli, ci ha dato il consiglio del limone. Alcuni ascoltatori mi dicono va meglio l'aceto, limone o aceto? Beh, sono due sostanze che cambiano il pH, sono uguali. E volendo anche ci sono degli oli. Sì. Ci sono degli oli, ci sono tanti oli, l'olio fa bene al capello perché ristruttura un po' proprio tutta la forma esterna, per cui l'olio di mandorla per esempio, anche l'olio d'oliva, un olio d'oliva normale, direi che è estremamente utile, li rendono più lucidi, li idratano, per chi ha dei bei capelli e grossi hanno anche un bel effetto cosmetico, chi ha i capelli più fini e più lisci e più delicati invece tende ad appesantire, per cui non è il massimo, allora ci sono dei prodotti cosmetici che hanno degli oli ma trattati per cui diventano più belli. Però gli oli vanno benissimo. Gli oli vanno benissimo, con anche da massaggiare sul cuoio capelluto, e proprio su questo cuoio capelluto che possiamo posare le nostre mani. Anzi, noi ci facciamo massaggiare dal professor Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica della colonna vertebrale. Buongiorno. Ma buongiorno a voi, buongiorno a te Nicoletta, buongiorno al grande Fabio Rinaldi, grandissimo dermatologo. Noi approfittiamo del momento dello shampoo o del momento in cui distribuiamo l'olio sui capelli, certo, per regalarci un po' di benessere. Quindi noi mettiamo le nostre teste nelle sue mani. Oh, benissimo. Che responsabilità, eh? Guardi, è stata veramente illuminante la canzone del grandissimo Giorgio Gaber. Nello shampoo, quando lui dà la dimostrazione di che cosa può essere a volte uno shampoo, ha tanta ragione proprio in quello che stavate dicendo adesso, nel fatto che possiamo massaggiare il cuoio capelluto. Sotto il cuoio capelluto abbiamo il nostro cranio. Se noi immaginiamo il cranio, che non è un osso unico, per fortuna, ma sono tante ossa con delle suture ben compatte tra loro, che molte volte sono anche causa di alcuni nostri mal di testa. Quindi massaggiare tutta la zona con molta attenzione, lasciarsi andare, fa veramente bene, ma benissimo, perché ci rilassa, ci fa stare meglio. Alcune volte sparisce anche il mal di testa. E soprattutto sentiamo un benessere su tutta la muscolatura. Sono pressioni, movimenti circolari, iniziamo dalla fronte e andiamo a scendere, oppure improvvisiamo? Allora, al di là di quello che può essere il consiglio rispetto ai capelli, ma parlando soltanto dal mio punto di vista, che è quello di farci rilassare, partiamo dal centro della testa, l'apice proprio del nostro capo, la parte più alta della testa, e scendiamo verso l'esterno. C'era un giochino che si faceva da bambini, quello di rompere l'uovo, far finta di rompere l'uovo sulla testa, non so se l'avete mai fatto. Certo, io lo faccio ancora adesso qualche volta. È bello. Proprio quello il movimento, come se ci fosse quasi un polpo che arriva e con i suoi tentacoli lascia andare a cascata in modo naturale, come quando siamo sotto la doccia e facciamo scendere l'acqua addosso a noi. Questo movimento è sicuramente il migliore. Poi, se mettiamo la mano più o meno a ragno, per intenderci, dei movimenti circolari, sicuramente piccoli, ma con ferma la mano sul cuoio capelluto, come se lo facessimo vibrare un pochino. Questo, da un punto di vista proprio della distribuzione del nostro benessere, è fondamentale ed è veramente importante, e ne approfittiamo mentre facciamo sicuramente lo shampoo. Però... Una volta d'estate, per sfuggire al caldo, sono le 4 del pomeriggio e in strada non c'è quasi nessuno, si infila in un negozio di parrucchiere deserto, si fa lavare i capelli, se ne sta a faccia in su. La posizione è scomodissima, ha male alla cervicale e un po' lo inquieta la leggerezza con cui la sua carotide sembra offrirsi alla lama del primo tagliagole di passaggio. Ma la frizione dei polpastrelli, la dolce nuvola di profumo vegetale che esala dalla schiuma e la pressione dei getti d'acqua tiepida lo stordiscono, trasportandolo gradualmente in una specie di dormiveglia. Dottor Di Pietro, si entra per un taglio, per una piega, si esce con la cervicale, perché il momento del lavaggio è critico. È critico, sì. Infatti l'ideale è, quando si fa lo shampoo a casa, farlo direttamente sotto la doccia e non in ipertensione della colonna cervicale. Però quando andiamo poi dai professionisti del lavaggio del capello, siamo sempre o piegati in avanti o piegati indietro, e lì ci ricordiamo che forse abbiamo qualche problema di cervicale. Perché andiamo a utilizzare la muscolatura della cervicale come non è abituata, e quindi dà delle piccole poi pressioni nelle vertebre cervicali, principalmente intorno alla C5, che è a metà del collo, sì, e alla C6-C7, quella che è più giù, quella che sembra sempre sporgere, che tutti i pazienti chiedono: ma che cos'è che questa specie di gobbino? Cosa si può fare? Un po' di rotazioni del capo in senso orario e antiorario, allora, per scioglierla? Sicuramente non portarsi in avanti o indietro violentemente, e soprattutto attenzione se si è stati esposti tanto all'aria condizionata. Il problema è il muscolo freddo. se noi a un muscolo freddo di qualunque parte del corpo, figuriamoci della cervicale, chiediamo di colpo un movimento e lo stiriamo, andiamo incontro sicuramente a un bel torcicollo. Per cui scaldare prima il muscolo, ripeto, attenzione all'aria condizionata, e un consiglio veloce veloce può essere quello di prendete una matita, prima di fare lo shampoo, mettetela tra i denti, che attraversi da canino a canino, sì. come quando i cagnolini mordono l'osso, per intenderci. Esatto. E fate lo shampoo in quel modo. Farà in modo che non arriveremo alla massima richiesta di estensione della muscolatura. Proveremo, quindi doccia, lavaggio del capello, dottor Rinaldi, segni anche lei, con una matita tenuta tra i denti, un po' come fanno i cani quando hanno l'ossetto. Grazie, dottor Di Pietro, per essere stato con noi. Buona estate. Anche a voi, buona giornata per oggi. Arrivederci. Grazie, grazie. Roberta, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi tutti. Io ho un problema, volevo, se è possibile, perché tanto che ci sto dietro non riesco a risolverlo. Ho la cute parecchio grassa e ogni anno che passa, io ho 42 anni, anzi invece che migliorare peggioro. Tutti i giorni dovrei lavarmi i capelli perché a fine giornata ho il capello talmente unto che è come se fosse bagnato. E volevo sapere se c'era un rimedio. Certo, dottor Rinaldi. Il capello particolarmente grasso va lavato, è antiestetico, ci viene la voglia di averlo più leggero, più luminoso, più lucido, e li laviamo. Lavaggio dopo lavaggio però molti di noi notano che il capello si sporca sempre più rapidamente. Che cosa succede? Ma questo non è del tutto vero. Il capello si sporca perché la pelle fa, il cuoio capelluto fa questo sebo e il sebo va sul capello e si sporca. In realtà se noi lo laviamo tutti i giorni rimane pulito allo stesso modo. Se non usiamo soprattutto uno shampoo molto aggressivo, quindi la secrezione del sebo è sempre quella, noi avremo la stessa produzione di sebo di sempre. Tenerlo pulito, il cuoio capelluto vuole dire tenere i capelli più puliti, e con questi shampoo delicati per lavaggi frequenti conviene fare dei lavaggi quotidiani se il cuoio capelluto è così sporco. E poi ci sono delle soluzioni da mettere che a volte contengono dei principi medicinali come l'acido retinoico, come l'acido salicilico, da mettere nel periodo per esempio autunno-invernale, che possono un po' controllare la secrezione del sebo. Quindi un modo per controllare c'è, una frequenza di lavaggi quotidiana, soprattutto se la situazione è quella, è decisamente opportuna, senza nessun problema. Quindi un dermatologo potrebbe aiutare Roberta. Assolutamente, soprattutto shampoo, ricordiamo, diluito, piccole quantità di shampoo, vero dottor Rinaldi? Vero, vero. Ci sono alcuni ascoltatori che mi stanno scrivendo, vorrei delle risposte flash. Ho 38 anni, capelli forti, non ne perdo, crescono abbastanza in fretta però iniziano a diventare bianchi. Che cosa si può fare? Una magia, dottor magia. Rinaldi? Poco. Però per esempio adesso ci sono dei prodotti a base di, si chiamano di polipeptidi, fattori di crescita ricostruiti, che sono un po' capaci di ridare pigmento ai capelli. Li vendono in farmacia, non sono pericolose, fanno bene al capello e a volte anche proprio al pigmento. Si applicano? Si applicano. Sono creme, oli? No, sono soluzioni. Sono delle fiale che contengono queste cose ad alta concentrazione e aiutano il melanocita a formare più pigmento e possono rallentare, non far ritornare tutti scuri, ma rallentare. Il rosso dell'uovo va bene? Ci scrive un anonimo. Il rosso dell'uovo va bene, però ormai è superato. È un po' superato, perché il rosso dell'uovo veniva utilizzato nelle maschere nutrienti, in alternativa se abbiamo i capelli secchi, se richiedono se il rosso dell'uovo, che cosa, con quale prodotto possiamo sostituirlo? Ma con delle magnifiche maschere e dei magnifici balsami che riportano tutto questo, i lipidi compresi, senza avere questo effetto cosmeticamente un po' relativo. Maria Cristina ci chiama dalla provincia di Torino, le mie amiche, 800 24 00 24, grazie Maria Cristina per essere intervenuta, buongiorno. Veramente un'amica. Senta, io sono all'età, ha visto, 68 anni, sì. Ho sempre avuto i capelli molto fini e continuo a averli, che mi danno niente, esteticamente darebbero molto più risultati se fossero leggermente più robusti. Io faccio ogni mese una ricostruzione a base di cheratina, sì. È sufficiente o cosa posso fare? E soprattutto serve, Maria Cristina? Dottor Rinaldi. Sì, serve perché dà una guaina intorno al fusto e quindi comunque gli dà un po' più volume, un po' più di resistenza. Sicuramente non è dannosa se stiamo parlando di maschere a base di cheratina normale. Permettimi Nicoletta, attenzione, ci sono ancora dei parrucchieri o dei prodotti che utilizzano le maschere con la formaldeide che danno magnifici risultati estetici, ma la formaldeide è pericolosissima e tossica, ma la cheratina da sola invece va bene e quindi si possono fare. Non si può fare molto di più perché se i capelli sono fini proprio così strutturalmente non c'è modo di cambiarli, magari si può stare attenti a un'alimentazione che li tenga il più sano possibile e utilizzare questi prodotti cosmetici di rinforzo. Dove abiti? In centro. Hai una casa? Un appartamento. Tu in affitto? In affitto. Che cosa fai per vivere? Un sacco di cose. Dov'è il tuo ufficio? Non ce l'ho. Come mai? Non ne ho bisogno. Dov'è tua moglie? Non ce l'ho. Come mai? È una lunga storia. Hai figli? Non ne ho. Come mai? È una storia ancora più lunga. Sei il fratello di mio papà. Qual è il tuo record in fatto di domande e modello interrogatorio? 38. Sono il fratello di tuo padre. Sì, ma hai molti più peli nel naso di mio papà. Sei carino a farmelo notare. Sono un bambino, è il mio lavoro. Superflui, e questo è l'aggettivo che più spesso viene abbinato a peli, ma in realtà a qualcosa serviranno, no? Insomma, non sono nati per metterci in imbarazzo, per fare la fortuna di prodotto, di trattamenti adatti a eliminarli, o no? Secondo voi a che cosa servono i peli? Lo chiediamo alla dottoressa Anna Trink, dermatologa, che è in linea con noi, con cui apriamo questo confronto peli e capelli. Alla dottoressa Trink peli, al dottor Rinaldi capelli. Dottoressa, intanto buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. A cosa servono questi peli di cui vorremmo assolutamente fare a meno, ma che ce li abbiamo? La connotazione del pelo in senso negativo è frequentissima, infatti quando si parla di pelo a me viene sempre in mente il proverbio peli e guai non mancano mai. In realtà le funzioni dei peli sono moltissime, anche molto importanti. Prima tra tutte è sicuramente quella di regolazione della temperatura corporea. Pensiamo ad esempio al momento in cui abbiamo la pelle d'oca, quindi quando il pelo assume la posizione eretta. Ecco, quello è esattamente il momento in cui il pelo in questo modo riesce a ridurre al minimo possibile la dispersione di calore corporeo e a creare una sorta di barriera che limiti il contatto della pelle con l'ambiente esterno. Ma non dimentichiamo per esempio anche i peli del naso o i peli delle orecchie che effettivamente svolgono bruttini, un ruolo molto importante. Sì, però i peli delle orecchie no, non si può. Dottor Rinaldi, scusi, lei che è un uomo, cosa dice? No, non si può. No, il pelo nelle orecchie va tagliato. Assolutamente sì, saranno importanti, ma ormai possiamo controllarci anche senza peli. Servirà, ma serve a mettere in imbarazzo. No, dottoressa Trink, non ci piace quello dell'orecchio, però serve come quello del naso. Certamente, ma se non altro per una funzione filtro, è vero che quello del naso particolarmente, perché in effetti impedisce l'ingresso di microbi, di agenti irritanti che possono dare infezioni o allergie, quindi sicuramente hanno un significato. Vero, concordo che ce l'avevano certamente di più probabilmente nella preistoria, quando non avevamo alternative. Non dimentichiamo poi ancora una cosa, che sono i peli estetici, cioè le sopracciglia e le ciglia. Che sì, quelli ci piacciono. Quelli ci piacciono molto, di più. Molto, molto. Senta, dottor Rinaldi, succede però una cosa strana. I capelli, che noi proteggiamo con tanto amore, spendiamo un sacco di soldi per i prodotti, insomma, nonostante tutto, cadono e ne hanno sempre una per lamentarsi. Sono fini, sono ricci, hanno le doppie punte. I peli invece, che noi sottoponiamo a qualunque tortura, crescono sempre forti, baldanzosi, robusti. Viene da dire, forse sbagliamo qualcosa, dovremmo trattare i capelli come se fossero peli. Eh sì, è una fregatura. È una fregatura. Perché i capelli in realtà sono delle cellule, sono un gruppo di cellule delicatissime, per cui basta un niente che soffrono e la genetica spesso ci aiuta a farli cadere, a farli star male. Invece i peli sono strutturalmente fortissimi, per cui possiamo fare, magari la dottoressa Trink ne parlerà, possiamo fare 1000 tentativi di depilazione e questi ricrescono sempre. Anche qui è una questione proprio di ormoni, di regolazione, però per fortuna è più facile, mentre è difficile far ricrescere i capelli è più facile mandar via i peli. Quindi possiamo in qualche modo arrangiare. Consoliamoci, quindi una domanda bruciapelo: eliminare definitivamente i peli si può o ci si deve in qualche modo accontentare, dottoressa Trink? No, se dovessi dovessi rispondere per forza sì o no, dovrei per forza dire no, nel senso che non esiste in effetti un metodo che li elimini completamente per sempre, però neanche accontentarci, perché di fatto oggi disponiamo di metodiche che perlomeno raggiungono un 80, a volte anche 90% di eliminazione dei peli corporei, quindi se non altro come impatto estetico, ma anche qualità della vita, è decisamente significativo rispetto al precedente. Dottoressa Trink, lei ci ha detto che ci sono dei metodi, dei trattamenti che ci permettono di, insomma, dominare la crescita, la ricrescita del pelo, insomma di eliminarli almeno in parte, di essere soddisfatti. In questa stagione in modo particolare però alcuni trattamenti devono essere sospesi, sbaglio? No, assolutamente ragione purtroppo, perché tutte le metodiche laser di eliminazione del pelo effettivamente sono controindicate in questa stagione, perché l'effetto infiammatorio che inevitabilmente producono interagendo col sole può portare a macchiare la pelle. Quindi togliamo i peli ma ci prendiamo le macchie, tanto vale ecco rimandare e aspettare la stagione autunnale o invernale. Ci sono dei consigli per peli difficili, i peli della schiena per gli uomini, i peli delle orecchie, me lo chiedono al 349-238-6666 degli orchetti che stanno sentendo essere benessere. Dottoressa Trink. Direi che la metodica laser resta quella consigliata in qualunque condizione di queste che mi descrive. In realtà oggi ci sono, che possono essere magari una risoluzione in questo periodo in cui il laser non si può fare, delle medicazioni, chiamiamo delle soluzioni topiche, che si possono utilizzare per rallentare la crescita. Sono spesso a base di oli essenziali che hanno un effetto come ormonoregolatore, quindi riducono la velocità di crescita del pelo tra un'epilazione e quella successiva. E quindi possiamo utilizzarle anche dopo la comune ceretta? Certo. Lei mi dice oli essenziali, ma quali sono? Soprattutto il tea tree e la lavanda. E si trovano in farmacia o anche, sì, o anche nei supermercati? Sono, sì, come facciamo a riconoscerli? La farmacia sarebbe l'indicazione migliore, se non altro perché ha magari prodotti tutelati dal rischio allergenico. Sono proprio prodotti indicati per il rallentamento della ricrescita del pelo. Ci sono dei suggerimenti che arrivano dalla saggezza popolare, ad esempio, è vero che è meglio depilarsi luna calante, è meglio depilarsi la sera? Sugli effetti biologici della luna sul nostro organismo in effetti sono stati tentati degli approcci scientifici, ma molto difficili da dimostrare, quindi direi di no. L'unico studio scientifico che riguarda le nascite in luna crescente ha dimostrato che non c'è in effetti un nesso significativo. In realtà quello della sera e della mattina può avere un senso soprattutto per le tecniche di epilazione e di depilazione, quindi il rasoio per esempio, ma soltanto per buon senso, perché la sera con le gambe gonfie effettivamente l'epilazione potrebbe non arrivare alla radice del pelo. La mattina invece, magari soprattutto dopo la doccia con pelle detersa e con gambe molto più snelle dopo il riposo notturno, in effetti l'epilazione col rasoio può essere più efficace. E dottor Rinaldi, le orecchie invece? Ah, le orecchie si va di pinzetta. Oppure... Che dolore! Però, oppure si può usare anche il laser, ci sono dei laser che hanno degli spot molto piccoli e facendolo dalla parte esterna si arriva praticamente all'altezza del bulbo e quindi con pochi spot per chi ha veramente tanti peli, per cui diventa difficile qualsiasi altro trattamento, si può anche fare. In linea con noi ci ha raggiunto il dottor Marco Temporin, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medica di Altavilla Vicentina. Buongiorno dottor Temporin. Nicoletta, buongiorno, un saluto a tutti. Dottore, per chi sta partendo, qualche consiglio da parte sua da mettere in valigia, qualche rimedio naturale? Allora, pensavo che potrebbe essere utile per chi sta partendo, soprattutto perché non vuole rovinare i propri capelli, di utilizzare l'olio di jojoba. L'olio di jojoba è un ottimo ristrutturante ed è un protettivo per capelli sfibrati, spenti e anche con doppie punte, ma può essere un ottimo rimedio per i capelli rovinati dal sole e dalla salsedine. Basta applicarne qualche goccia con un leggero massaggio prima dello shampoo e poi si toglie tranquillamente con lo shampoo. Si mettono sulle lunghezze, come si dice, solo sulle punte? Allora, può essere, allora vanno usate poche gocce, va massaggiato delicatamente, va leggermente allungato, soprattutto per le signore che hanno i capelli lunghi, va massaggiato fino alla lunghezza delle punte, in voilà, modo che tutto il principio attivo possa penetrare. E poi però possiamo anche arricchire la nostra dieta? Perché i capelli, come le unghie, ne abbiamo parlato tante volte anche col dottor Rinaldi, sono un po' lo specchio, no? del nostro stile di vita. Certamente. nelle nostre buone insalate estive, quindi tanta frutta e tanta verdura, ma nelle nostre insalate possiamo aggiungere il germe di grano. Il germe di grano in scaglie è facilissimo da mettere nell'insalata, è gradevole ed è ricchissimo di vitamina E. È un ottimo antiossidante naturale e rinforza soprattutto capelli ed unghie. Un ultimo consiglio, dottor Temporin, magari so che lei è stato all'ascolto della trasmissione, ma abbiamo avuto l'intervento di un'ascoltatrice con i capelli particolarmente fini, un'altra ascoltatrice che si preoccupava del cuoio capelluto particolarmente grasso. Allora, in questi casi può essere utile utilizzare l'olio di rosmarino sufficinalis, quindi l'olio di rosmarino. Va messa qualche goccia frizionandola solo nel cuoio capelluto, l'importante è non esagerare mai con la quantità, va lasciato agire per qualche minuto, dopodiché si può sciacquare. Il rosmarino è un ottimo seboregolatore, quindi regola la secrezione di grasso e anche è un buon antisettico per il cuoio capelluto. Voilà, la valigia è pronta. Grazie, dottor Temporin. Un saluto a tutti. Anche a lei, buona estate. Dottor Rinaldi, dottoressa Trink, vogliamo un po' ricapitolare le buone abitudini, le cure ordinarie e straordinarie per i nostri capelli? La dottoressa Trink magari ci regalerà anche qualche altro piccolo trucchetto per evitare che dopo la ceretta, ad esempio, la pelle si arrossi, si copra di puntini, oppure magari ci consiglierà qualche trattamento pre-ceretta. Ma dottor Rinaldi, cominciamo da lei. Se vuoi le chiome mantenere belle, devi ricordare che? Devi ricordare che qualsiasi trattamento cosmetico tipo permanente, tintura, cose di questo genere, lo facciamo un 7-8 almeno giorni prima di esporsi al sole. Quando andremo al sole utilizzeremo dei filtri di protezione solare molto alti, ce ne sono proprio specifici per il cuoio capelluto e per i bulbi e non tanto solo per le lunghezze del fusto, in modo che ogni volta che si cammina, si passeggia, si va al mare, si mette un filtro molto alto, si farà in modo di risciacquare i capelli dopo l'acqua di mare, dopo la piscina, magari riapplicando il filtro qualche ora dopo in modo da tenere questa protezione continua. Stare attenti con la dieta, effettivamente diete col germe di grano, come ha detto il dottor Temporin prima, e con qualsiasi cosa che possa aiutare a tenere la quantità di aminoacidi, di antiossidanti è estremamente utile. Utilizzare shampoo frequenti anche in estate, molto delicati, e a maggior ragione balsami, maschere protettive. Un cappellino, possibilmente esistono addirittura dei cappellini a protezione solare, cioè dei tessuti trattati in modo che facciano protezione solare importante. Un cappello di paglia, un cappellino di cotone non protegge più di tanto, però comunque è sempre meglio metterlo. E quando si torna, ricominciare a fare magari, come diceva prima sempre il nostro amico Di Pietro, dei massaggi per mantenere la circolazione più giusta e ricominciare a trattare i capelli con delle sostanze ricondizionanti e ristrutturanti in modo che i capelli soffrano meno. Ricordo ancora il discorso che facciamo prima con queste nuovissime cose che sono questi polipeptidi, sono dei fattori di crescita ricostruiti, per così dire, che veramente danno al bulbo il modo di stare nella fase più attiva possibile e soffrire meno. In questo modo i capelli probabilmente anche già da settembre-ottobre sono ancora belli e evitiamo la caduta più importante. Invece vorremmo così sollecitare la caduta del pelo e evitare di cercare di rallentare la ricrescita. Soprattutto, dottoressa Trink, abbiamo quasi tutti la sensazione che in estate il pelo cresca più rapidamente e più forte e baldanzoso che nelle altre stagioni, è vero? Questo può avere una base scientifica, nel senso che nel periodo estivo il caldo fa sì che i vasi sanguigni si dilatano e quindi è come se arrivasse più sangue, quindi più nutrimento ai peli, che possono effettivamente crescere più rapidamente. Sfatiamo invece il mito che se li tagliamo crescono, col rasoio per esempio, crescono più grossi e di più. Questa invece è una percezione soltanto soggettiva. Si possono utilizzare, come vi dicevo prima, delle sostanze che rallentino la crescita di nuovi peli. Attenzione, sempre per dare brevi spot, pelle detersa, evitare l'esposizione solare immediata, evitare l'utilizzo nelle 24 ore successive perlomeno di profumi oppure di creme corpo profumate. E poi l'attenzione va fatta, se ci fossero pelli particolarmente delicate, a utilizzare antinfiammatori magari a base di beta-gliceretico, di aloe, che siano naturali e possano limitare il più possibile l'effetto infiammatorio successivo all'epilazione. Ma Pier Francesco da Padova ci scrive: volevo chiedere se la ceretta fa male alla pelle delle gambe. Io dico di no. Che dice? No, assolutamente. Non fa male in assoluto, però è vero che c'è un piccolo rischio della ceretta, più che altro legato alla comparsa di capillari. Quindi può essere in realtà che il traumatismo possa indurre nel tempo la comparsa di capillari alle gambe in particolare. Ecco. Bruna ci chiama da Cuneo. Buongiorno Bruna, benvenuta. Grazie, grazie. Io volevo fare due domande, se possibile. La prima, vabbè, è questa. Io prendo spesso, diciamo, quotidianamente un bicchiere con un cucchiaino di germe di grano. E volevo sapere, oltre a fare bene ai capelli, sì, pelle e unghie, sì. Sì. Sono una persona anche abbastanza pelosa, non so bene se questo incide anche a farmi crescere un po' di peli. Non è che il germe di grano, dottor Rinaldi, fa crescere anche i peli? No. Oddio, abbiamo 30 secondi. Il germe di grano fa bene ai bulbi, per cui è chiaro che anche i peli stanno meglio, però i peli crescono lo stesso, ma fa meglio ai capelli, quindi vale la pena che lo prenda. Bruna, non abbiamo tempo per la seconda domanda, può scriverla e lo dico anche a chi ci sta ascoltando a esserebenessere@radio24.it. naturalmente abbiamo sempre il nostro profilo Facebook. Io devo salutarvi, ma torno domani per voi qui, tornate anche voi. Matteo Comes in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione.